lungo Vangelo è lungo, ma è anche bello. Sarebbe bello ripercorrerlo tutto, ma forse se fossimo in cerchio, se fossimo con domande e risposte, sarebbe più immediato, ma la predica la deve fare il sacerdote, insomma, anche se a me piacerebbe qualche volta leggere il Vangelo proprio insieme, sottolineando i vari aspetti, perché qui ci sono molti aspetti da sottolineare. Anzitutto, vediamo che Gesù è il padrone della vita, è il signore della natura. L'abbiamo visto tante volte nei Vangeli fare miracoli sulla natura. Tutti i miracoli che fa sulle persone dicono che lui è più potente perché è il creatore. E allora calma la tempesta, fa parlare un muto, fa vedere un cieco, fa camminare uno che non cammina, addirittura fa risuscitare delle persone che sono morte, Lazzaro che era morto da 4 giorni. E questo, cari cristiani, varrebbe la pena che ci aiutasse a riflettere su chi è Gesù. Io sono convinto che tutti noi, dai piccoli ai grandi, sappiamo abbastanza bene chi è Gesù. Ma forse non ci fermiamo a riflettere. Per esempio, una cosa, senza che vi offendiate, che probabilmente non avete scoperto in questo Vangelo, è che questo è un Vangelo, sembrerebbe, all'incontrario. In che senso? Nel senso che in tutti gli altri miracoli sono le persone che vanno a Gesù a chiedere il miracolo. Fa che io veda, fa che io cammini, guarisci la mia bambina che sta morendo. In questo caso invece quest'uomo non va a chiedere il miracolo a Gesù. È Gesù che è come se gli dicesse: ehi, tu sei cieco, vuoi guarire? È interessante questo, eh? È interessante che Gesù faccia un miracolo senza che quello gliel'ha chiesto. Che cosa insegna alla nostra vita? Ah, secondo me ci dà un grande insegnamento. Mio parere, eh? Questo che sta scritto è il Vangelo, quello che io dirò non è Vangelo, però insomma è un po' di tempo che io leggo il Vangelo, lo studio, lo medito, lo prego e forse quello che dirò non è proprio così strano. È che troppe volte quando noi abbiamo bisogno di una guarigione da una malattia, quando noi abbiamo bisogno di ottenere una grazia da Dio, noi facciamo la testa grossa così al Signore. Continuiamo a chiedere. Provate a pensare se non è vero. Ho provato a vedere attorno a me delle persone che avevano una nipote che non stava bene, non sapevano più come pregare il Signore e va in pellegrinaggio da Padre Pio e fa dire una messa e continua a ripetere e piange e va in crisi e continua, ma il Signore se fosse buono, bla bla bla. È giusto o sbagliato? Io penso che sia anche giusto. Ognuno prega come è capace, però non è l'unico modo, anzi, il Signore nel Vangelo ha detto: ma perché continuate a ripetere tante parole? Il Signore lo sa già ciò di cui voi avete bisogno. Quando pregate, non moltiplicate invano le vostre richieste, dite poche parole: Padre nostro che sei nei cieli, insegna il Padre nostro. Ecco, a me questo Vangelo insegnava esattamente questo insegnamento, che noi possiamo chiedere al Signore le grazie, ma che il Signore le grazie ce le fa ugualmente, anche tante volte se noi non gliele chiediamo, se noi lo amiamo e soprattutto perché lui ci ama. Io credo che noi abbiamo un'idea un po' primitiva di Dio, che Dio deve essere convinto, che Dio deve essere stortato sulla nostra idea a furia di chiedere, di chiedere, di chiedere, come dei bambini che se non chiedono 100 volte alla mamma qualcosa, ma perché, ma dammi, ma dimmi, ma dammi, t'ho detto di no, è a lei. No, questo Vangelo ci insegna che il Signore conosce le nostre necessità e ci aiuta a prescindere anche tante volte dalla nostra preghiera. Provate a riflettere, provate a riflettere. Se ha più fede in Dio, quello che continua a ripetere 100 volte la stessa richiesta o quello che gliela chiede una volta, sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno, e poi lascia fare a Dio. E questo è un primo insegnamento che io ho trovato, che forse voi non l'avevate notato, forse. Poi ci sono altre cose che certamente avete notato anche voi, che Gesù, per guarire quest'uomo, non gli mette un unguento purissimo sugli occhi, gli mette del fango, fatto in più con la saliva. Insomma, non è che sia proprio così igienico. Quando ci capita che c'è il vento e il vento ci soffia magari un granellino di terra nei nostri occhi, il nostro occhio si mette a lacrimare, noi lo sfreghiamo, cerchiamo di toglierlo. Figurati se ci metti su una manciata di fango. Perché Gesù fa così? Fa così per farci capire che non è magica quella sostanza lì, ma che è la sua parola che va. È come l'acqua di Lourdes. Non è che l'acqua di Lourdes abbia delle capacità terapeutiche miracolose, è un'acqua normale, è la fede per cui Maria ha fatto scaturire quell'acqua, è la fede nostra che andiamo a prendere quell'acqua, è la nostra fede. Poi un'altra cosa carina è il comportamento di questi genitori, Questi genitori, quando sono chiamati in ballo, si astengono. Oh, noi non c'entriamo, è maggiorenne, chiedete a lui. Sono un po' dei vigliacchetti questi qui, Non hanno il coraggio di dire: caspita, il nostro figlio era cieco e adesso ci vede, testimoniamo a favore di Gesù. No. Concludo, perché il Vangelo era lungo, non voglio tenere anch'io lunga la predica, anche se ripeto che sarebbe interessante scavare dentro nel Vangelo, perché ci sono tantissimi insegnamenti. Proviamo a riflettere se noi facciamo nella nostra vita come questo ragazzo che ha avuto il coraggio, portato in tribunale da solo contro tutti, anzi si mette a farlo spiritoso, è la terza volta che ve lo ripeto, volete continuare a sentirlo perché forse siete così interessati a Gesù che volete diventare anche voi suoi discepoli? Non l'avesse mai detto, lo cacciano fuori. Che diversità tra questo giovane e i suoi genitori. Lui ha il coraggio di sfidare, i genitori si nascondono. Concludo dicendo a noi stessi: noi abbiamo il coraggio di dire la nostra fede di fronte agli altri o ci nascondiamo? Vi porto un esempio e poi ho concluso. Una persona un giorno viene a confessarsi e a dire: ho perso la messa, era d'estate, perché ero in spiaggia, dice, e guardavo l'orologio, vedevo che arrivava l'ora di andare via dalla spiaggia per andare a messa, ma non ho avuto il coraggio di venire via e di dire: vado a messa. Se no, conoscevo bene i miei vicini, mi avrebbero preso in giro chissà per quanto tempo. Ecco, questo ha fatto come i genitori, ha preferito nascondersi. Che bello invece uno che dice: vado via, come mai? C'è ancora il sole, ti ritiri così presto? Devo andare a messa. Oh, beh, io ci vado un'altra volta. Amici, il Vangelo ci parla. Bisognerebbe che noi lo capissimo bene e soprattutto che cercassimo di imitarlo.